Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Nel primo dei nostri approfondimenti parliamo di un'iniziativa di una grande azienda italiana destinata a fare storia, a trasformare il bilancio in una pubblicazione da collezione per raccontare agli azionisti, oltre ai numeri, anche i valori di un brand. Scopriremo tra poco di chi si tratta. Siete stati contagiati anche voi dalla fotomania? Questo è il tema del focus sui trend della settimana, quando la fotografia fa tendenza. Prima però ci sono come sempre le notizie e curiosità di questa settimana. Sbarca anche a New York il bike sharing. Il progetto, il maggiore negli Stati Uniti, prenderà il via a luglio. 10.000 biciclette, tutte con il logo della Grande Mela, saranno dislocate in 600 stazioni, sparse per la città. L'industria italiana perde un altro pezzo storico. Va in liquidazione Richard Ginori. Presente da quasi due secoli in molte case italiane, Richard Ginori è stato un marchio prescelto da re e regine per i corredi nuziali. Slot machine lontane dalle scuole. Il nuovo regolamento del Comune di Trento impone una distanza di 500 metri dai luoghi definiti sensibili, cioè istituti scolastici, residenze sociosanitarie e centri ricreativi. Le slot machine dovranno inoltre essere dotate di dispositivi di riconoscimento dell'età del giocatore tramite l'uso della tessera sanitaria. È sempre più crisi per i negozi di abbigliamento, fatturati giù fino al 30% secondo una ricerca di Federmoda. Per uscire dal tunnel, sostiene il Codacons, servono saldi e vendite sotto costo libere. Nasce Skillbros.it, il primo marketplace italiano della conoscenza. Soprannominato l'eBay delle competenze, Skillbros è una piattaforma dove si possono offrire o acquistare lezioni di ogni tipo, da tenere poi offline in un luogo da concordare. L'orto urbano conquista più di 4 milioni e mezzo di italiani. Secondo la Confederazione Italiana Agricoltori, dopo il boom negli Stati Uniti e in Inghilterra, il cosiddetto urban farming sta prendendo piede anche in Italia, dove muove un giro d'affari di oltre 1 miliardo di euro. Per gli appassionati, appuntamento a Roma, dal 18 al 20 maggio, per il Festival del Verde e del Paesaggio. E a Milano chiude oggi Orticola. È morto a Los Angeles, a 84 anni, Vidal Sassoon, il parrucchiere della Swinging London, i cui tagli geometrici negli anni 70 liberarono le donne da lacche, messe in piega e bigodini. I suoi tagli, creativi e squadrati, ispirati all'estetica della Bauhaus, diventarono un simbolo del movimento per la liberazione della donna. La borsa della spesa. Dei Beatles introduciamo il tema dell'approfondimento di oggi. Rubber Soul è il titolo di questo album. Dare anima alla gomma è la sfida dichiarata di Pirelli. Ecco svelato il brand che ha deciso di raccontare non solo i numeri ma anche i valori dell'azienda ai suoi azionisti. Lo ha fatto con un bilancio che sulla scia del famoso calendario diventa da collezione quasi un oggetto di design, grazie alla creatività di un giovane illustratore olandese, Stefan Glerum, e alle riflessioni d'autore realizzate ad hoc da 4 intellettuali contemporanei: gli scrittori Hans Magnus Enzensberger, Guillermo Martinez, William Lee Stitmoon e Javier Cercas. Una sorta di gadget finanziario dotato anche di applicazioni multimediali. Affidarsi a grafici, artisti e intellettuali per la comunicazione di Pirelli non è una novità. Storici cartelloni delle campagne realizzati da Bruno Munari, Alessandro Mendini o gli scritti di Ungaretti, Montale, Sciascia, Eco sulla rivista del brand. Una tradizione che non ha smesso di ispirarci, ci dice il graphic designer, direttore artistico del progetto, Francesco Valtolina. Credo che sia proprio l'imprinting di ciascuno che fa il mio mestiere in qualche modo, no? Avere come riferimento Pirelli, il tuo immaginario, le persone che hanno lavorato per questa azienda, quindi in qualche modo va al di là, no? Poi di una contemporaneità, un discorso più attraverso il tempo, no? È proprio anche un modo di vedere forse la contemporaneità, no? Cioè il fatto di dire, bah, forse oggi un bilancio può essere letto in maniera differente, ci sono 3.000 modelli e livelli di comunicazione differenti, dal web al video, eccetera, per cui forse oggi ha molto più senso fare un'operazione di questo tipo cercando di coinvolgere creativi e designer e lasciando loro spazio per potersi in qualche maniera esprimere, piuttosto che continuare imperterriti a portare avanti un modello. C'è proprio anche la capacità in qualche maniera di mettersi in discussione, forse la cosa più forte di tutto questo progetto. Io sono abbastanza giovane, Stefano è ancora più di me, quindi senz'altro anche il dare fiducia, cosa che non capita poi tutti i giorni, insomma, a designer giovani è senz'altro una nota di merito. La chiave addirittura secondo me del lavoro di Stefano è proprio il fatto di avere un tratto che è molto riconducibile a una tradizione molto simile a quella per esempio di Pirelli, quindi a volte ci sono anche dei richiami addirittura, qualcuno qui parla di futurismo, però in qualche maniera comunque è una tradizione che va e guarda verso l'illustrazione manuale piuttosto che a quella più strettamente legata al digitale di oggi. E però allo stesso tempo appunto riesce attraverso una sua chiave ironica e anche stilistica a ricollegarsi immediatamente però anche a un discorso molto più contemporaneo e fresco, quindi ecco questa sorta di bilancio e di equilibrio tra tradizione e innovazione credo che sia la cifra stilistica più interessante del suo lavoro, insomma. Velocità, rispetto, flessibilità, affidabilità sono alcune delle parole chiave rappresentate nelle 18 tavole di Glerum che strizzano l'occhio al futurismo e al mondo dei fumetti. Per il designer olandese è stata una bella sfida. È stato un lavoro stimolante. Noi abbiamo ristretto il campo a un concetto per dare forma alle parole chiave dei valori che rappresentano Pirelli. Quindi il lavoro non è consistito tanto nel trasformare il rapporto finanziario in illustrazioni, quanto nel trasformare i valori dell'azienda in illustrazioni. Ed è quello che ho fatto. Essere e avere. Eccole qui, tra mille foto impolverate, vedo così le mie emozioni immortalate, troppi ricordi, momenti incancellabili, mentre una lacrima disegna un sole. Guarda mio padre. Di nuovo in studio con Essere e Avere, fotomania, il tema del focus sui trend di questa settimana. Ne parliamo come sempre con la nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Lab, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie. Buongiorno. Dal web all'arte fino alla comunicazione pubblicitaria è esploso il fenomeno della fotografia. Grazie alle fotocamere pronto uso, diciamo così, siamo diventati tutti fotomaniaci. Dalle immagini condivise sui social network modello Instagram, passando per le community artistiche, scientifiche o di semplici appassionati, fino alle stampe che diventano arredo urbano. La passione per la fotografia si rinnova e soprattutto diventa social. Patrizia. Si dice fotografia, in questo momento quasi tutti stiamo pensando a Instagram, 30 milioni di utenti, l'app gratuita che ricolora le fotografie con filtri a scelta, recentemente acquisita da Facebook, disponibile anche per Android, è il fenomeno dell'ecosistema digitale che sta sbarcando nel mondo fisico con una serie di servizi come Stickygram, un servizio online di stampa personalizzato per trasformare le foto in magneti, quelli da attaccare sul frigorifero, con consegna a domicilio gratuita in tutto il mondo, oppure Instaprint, altro servizio, piccola cabina stampa con connessione wifi che stampa appunto le foto che abbiamo sul nostro smartphone. E ancora solo a livello di concept, la Instagram Socialmatic Camera, un oggetto fisico che esattamente per colori e forma è una macchina fotografica come l'icona dell'app in versione oggetto reale. Altro fenomeno, la lomografia, cioè la fotografia fatta con le lomo, le macchine analogiche. Tutto è iniziato nei primi anni 90 quando due studenti tedeschi scovarono una lomo compact automat, una macchina fotografica russa, la usarono un po' per gioco, visti i risultati in termini di colore, saturazione e vignettatura, fecero incetta delle lomo nella Berlino Est, le rimisero in funzione, cominciarono a venderle per poi passare a una vera produzione con l'Homography Gallery. È nato così un nuovo stile fotografico, allora sperimentale, oggi conosciuto con il nome di Lomography, che designa tra l'altro anche una nutritissima community internazionale che vanta un lifestyle analogico e che posta sul sito lomography.com qualcosa come 8.000 foto al giorno. E ancora Stream Colors, il caso di un'officina creativa, fenomeno artistico nato in rete con interessanti innovazioni nel mondo dell'arte digitale. La sua virtual gallery su Instagram ha raggiunto in 7 mesi quasi 12.000 utenti che da tutto il mondo interagiscono proponendo foto e temi da affrontare. Una ricerca interessante sui colori che sta appassionando il mondo digitale. Dunque è il web il luogo preferito per la passione dei fotomaniaci e con Pinterest diventiamo tutti curatori, come titolava un articolo del Domenicale del Sole 24 Ore qualche tempo fa. Pinterest è il nuovo social network fatto solo di immagini, nato circa un anno fa, è una bacheca virtuale su cui creare dei mood board tematici, delle composizioni fotografiche. Appunto, quello che si fa è attaccare immagini a tema secondo un unico criterio, quello che ci interessa. Il nome Pinterest è proprio la crasi tra pin e interest. L'uso più interessante è la composizione collettiva, cioè la condivisione della bacheca con altre persone che hanno lo stesso interesse. Si va da composizioni fotografiche, di moda, a tema su matrimonio, viaggi, casa, prodotti o grandi temi come la sostenibilità. Anche i brand stanno usando Pinterest in modi diversi o come vetrina prodotti, oppure con apertura collaborativa con dei mood board costruiti dagli utenti, come per esempio Barilla per il marchio I Piccolini. E siamo anche tutti editori di noi stessi. Il self-publishing è la parola d'ordine del 2012, cioè pubblicare senza avere un grande editore alle spalle, un modello alternativo all'editoria classica di commercializzazione e diffusione dei libri, tra l'altro uno dei temi chiave del Salone Internazionale del Libro di Torino che si chiude domani. Naturalmente si parla anche di libri fotografici ed è Blurb il sito specifico di riferimento che garantisce un'altissima qualità di stampa proprio per le fotografie. E possiamo definirla estrema l'iniziativa di una rivista di medicina, The New Journal of Medicine, che pubblica sul proprio sito le foto di persone con patologie rare, sintomi visivamente al limite della sostenibilità dello sguardo. L'obiettivo della sezione di questo sito, che per ora contiene 340 foto e che si chiama Image Challenge, è di chiedere ai visitatori del sito di fare una diagnosi con apposito modulo di domande da compilare. E sono molti i film che rendono omaggio alla fotografia o alla professione del fotografo, da Blow Up e Professione Reporter di Antonioni fino a Pretty Baby, Un anno vissuto pericolosamente, Sotto tiro, Femme fatale, solo per citarne alcuni. Su tutti abbiamo scelto il film che ha fatto di Paparazzo il sinonimo di fotografo scandalistico, La dolce vita di Federico Fellini. Allora, lumache va al Policella, va bene. Sì. Giulio, dai, fammi fare una fotografia. Non è possibile, caro. Perché gli dai tutti quei soldi, scusa? Se vuoi delle informazioni non ci sono io. Ma lo sai che ti faccio io? Ti spacco il musetto. Ma scusa, io ho un'opinione pubblica da informare, il mio mestiere. Del resto, un po' di pubblicità. Ah, la chiami pubblicità questa? Ma lo sai che l'hai messa nei guai col marito a quella? Ma mi impiccio io dei buffi tuoi e delle cornacce a due. Ma tu mica fai il giornalista. Che sia giornalismo il suo. Sta zitta te. Datti una regolata, Marcello. Marcello, come here. Patrizia, lo dicevamo in apertura, questa rinnovata passione per la fotografia non è un fenomeno che corre solo online, interessa anche l'arte e la comunicazione soprattutto. Beh, certamente, e parlando di arte non possiamo non citare Mia Fair, Milan Image Art, la fiera d'arte dedicata alla fotografia e video che si è tenuta a Milano dal 3 al 6 maggio, 230 espositori provenienti da oltre 20 paesi. Tra le moltissime opere degne di segnalazione, quelle di una fotografa che riproduce in versione set fotografico i soggetti dei quadri capolavoro della storia dell'arte, come quello di Francisco Hayez del 1859, Il bacio bacio che riproduce l'ultimo bacio dato da Giulietta a Romeo. E tra i nuovi metodi di stampa, particolarmente innovativa quella lenticolare, che ha tre caratteristiche: profondità, fluidità e pochissimo spessore. Sono delle immagini che diventano dinamiche e tridimensionali ad altissima definizione e si muovono al muoversi del nostro sguardo. È una tecnica applicabile, già applicata alla comunicazione, al marketing in store, per gli eventi, per la promozione di prodotti, packaging, adesivi, ma anche arte, moda e architettura ne stanno facendo già largo uso. Sul sito www.lenticolare.it si trovano le immagini di pareti di negozi, di gadget, di soluzioni creative, di pubblicità outdoor molto belle da vedere, perché sono proprio immagini che si muovono, come quella delle sottilette cremose di Kraft. Altro caso interessante è l'etichetta dei capi d'abbigliamento Ducati con il logo che ruota su se stesso. E ancora un'altra app, si chiama Leaf Snap. È un'app che, inquadrata la foglia di un albero, risale alla tipologia dell'albero, proprio come Shazam, che da poche note risale alla canzone che vogliamo riconoscere. Fotomania anche per i bambini. Troviamo le fotocamere non solo nei telefoni, nei device elettronici, ma anche nelle bambole. Alla Fiera del Giocattolo di New York è stata appena lanciata Barbie Photo Fashion Doll, con macchina fotografica incorporata che tiene 100 foto, dissimulata nel gancio di una collana. Le foto si possono vedere poi su un display LCD inserito nei vestiti speciali di questa Barbie fotografica. Le foto sono scaricabili direttamente su computer dalla porta USB che è posizionata sulla schiena della bambola stessa. La condivisione delle foto, il photo sharing, piace anche alla moda, evidentemente. Lo stilista Marc Jacobs ha avviato l'anno scorso un'iniziativa di social media marketing, invitando i consumatori a diventare parte dell'album di famiglia del brand. Le foto venivano caricate sul sito, valutate da tutti gli altri utenti, e le più votate facevano vincere agli autori pezzi della collezione. Il successo dell'operazione l'ha fatta prolungare anche nel 2012. Caso paradossale è quello della Descriptive Camera, una macchina fotografica descrittiva. Preso alla lettera l'adagio popolare «una foto vale più di mille parole», Matt Richardson ha inventato un dispositivo che non produce immagini, bensì un testo. Ed è un testo che descrive ciò che la macchina vede e inquadra. Come funziona? In realtà il dispositivo fa un normale scatto fotografico, è connesso, invia la foto al servizio di Amazon Mechanical Turk, dove persone in carne e ossa guardano la foto e la descrivono. Tra i 3 e i 6 minuti, al costo di $1.50, si riceve il testo che esce su carta come una specie di scontrino stampato con la descrizione. Cosa c'è di nuovo a Berlino su fotografia, consumi e dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, buon pomeriggio. Dunque, la fotografia è protagonista anche nella street art, e in particolare Berlino ospita un collettivo di artisti, si chiamano Mental Gassi, davanti alle cui opere non si può rimanere indifferenti. Sono 3 artisti che utilizzano delle fotografie di grande dimensione e o deformate, con cui rivestono parti di città e oggetti dell'arredo urbano. I loro soggetti preferiti sono le smorfie sulle facce dei loro amici, che si ritrovano il giorno dopo appiccicati, per esempio, sulle campane della raccolta del vetro, rivestendole completamente col loro buffo primo piano, o sulle macchine obliteratrici dei mezzi pubblici, dove il foro in cui si inseriscono i biglietti coincide con la bocca, o ancora dietro le grate di una finestra, come se fossero rinchiusi in una prigione. Il sovradimensionamento di queste opere e i contesti in cui vengono inserite generano prima un forte impatto visivo e poi un divertente senso di spiazzamento, e infatti nelle intenzioni degli artisti nascono come una sorta di urban entertainment che vuole indurre le persone a guardare alle situazioni e ai luoghi della quotidianità da una prospettiva differente e ironica. Grazie Alessia. Patrizia, siamo in conclusione. Quale tipo di sviluppo si può ipotizzare per questa tendenza? Le nostre vite saranno sempre più fotomaniache? Beh, sicuramente continueremo a fotografare, lo scatto ormai è un'abitudine delle nostre vite, documentiamo quasi ogni momento, e questa diffusa passione per la fotografia, o meglio del fare foto, è ovviamente legata alla diffusione degli smartphone e di tutti i device dotati di macchina fotografica, così come delle app dedicate. A questo possiamo aggiungere il fatto che siamo in una cultura iconografica e una riflessione critica su questo, che sta un po' serpeggiando già in rete, ha a che fare con l'eventuale perdita dell'attimo di vita mentre lo si vuole immortalare. Come dire, un'esperienza o si vive o la si fotografa.